Ma mi è sembrata più che altro una così una zitella isterica in crisi d'astinenza. Il livello della dialettica politica espressa da Pulvirenti si qualifica da sé, non devo aggiungere altro perché siamo tutti capaci di qualificare questa cosa. Le scuse le posso anche ricevere, però l'umiliazione è stata tanta, ho subito tanti danni, insomma non lo so sinceramente se potrei accettare le sue scuse. Tutti convocati di Carlo Genta. Cari amici convocati, buongiorno a tutti. 800 24 00 24 per arrivare qui col vostro telefono. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, aspettando Balotelli che continuo tam tam dall'Inghilterra, dove c'è Raiola serragliato in un hotel dove si continuano le trattative, insomma Balotelli vicinissimo, si dice al Milan, questione di ore, poi lui manda i messaggini agli amici, sto arrivando, eccetera eccetera, cose che abbiamo sentito e letto, insomma Balotelli trasformerà un tapiro d'oro in realtà, insomma ve lo ricordate quel famoso tapiro d'oro? Ebbene, diventerà realtà quella maglia del Milan grazie al mago, anche o soprattutto al mago delle rateizzazioni, Adriano Galliani. Poi parleremo anche di feste in maschera romane. Zeman ha diretto l'allenamento questa mattina, un'ora di confronto con la squadra, però è sempre più in bilico, si parla di Blanc che ha smentito, di Rijkaard che ha smentito, insomma la Roma, non dimentichiamolo, gioca venerdì, quindi è dietro l'angolo la partita che sarà l'unica stagionale con il Cagliari, si gioca all'Olimpico dopo quella pagliacciata dell'andata. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Però prima di tutto questo torniamo per un attimo al Saloon di Torino. Cross di Lichtsteiner, fallo di mano plateale di Granquist, giudicato involontario. Ancora palla dentro, l'arbitro dice che può passare, manda tutti sotto la doccia. Finisce 1-1 con la Juve imbufalita. Avrei preferito che mi avessero detto ho sbagliato, non l'ho vista, ero coperto, però non me lo poteva dire perché Romeo aveva detto che era rigore, il problema è quello, allora non me la sono sentita, onestamente non l'accetto, mi dispiace, poi Guida è sicuramente uno tra i migliori arbitri, tra i più giovani, mi dispiace, però da allenatore e da uomo di calcio non l'accetto che mi si dica non me la sono sentita. Romeo quindi aveva detto che era rigore, che questa è la parte mancante, è il passaggio mancante. Ah, era rigore. Ma pure un cieco vedeva una cosa talmente lampante, li hanno visto tutti, cioè che doveva dire. L'arbitro guida di Torre Annunziata, provincia di Napoli, probabilmente era in difficoltà. Questo è pesante però, perché? No, non è pesante, perché sono giovani, quindi una designazione così difficile, se la si dà a un arbitro della provincia di Napoli, diventa difficile anche proprio nella... No, simpatia, difficoltà, sono difficoltà. Quindi in tutto sommato contesto anche la designazione, ma è una contestazione, ripeto, non c'è malafede, non c'è nulla. E dunque sono arrivate, dopo questa la gazzarra di Torino, sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo. Ditemi voi se a vostro parere congrue oppure no. Due giornate di stop a Conte, che tanto ormai ha il vetro oscurato e abituato. Due turni di stop per Bonucci, e questo potrebbe essere un problema non da poco per la Juventus, visto che c'è solo Barzagli tra i difensori titolari abile arruolato per la partita con il Chievo. Marotta per la prima volta in carriera, per queste dichiarazioni che abbiamo risentito, inibito per 3 settimane. Io saluto e ringrazio un vecchio amico che abbiamo convocato insieme a tutti voi, naturalmente, 800 24 00 24, Massimo Chiesa, ex arbitro naturalmente. Ciao Massimo. Ciao Carlo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori, ben trovato. Quante partite hai diretto tu tra i professionisti? Già, tra i professionisti un centinaio. Sì. E un assedio come quello ti è mai capitato? No, anche perché un assedio come quello, per certi versi, è anche frutto della personalità che tu dimostri in campo, per cui io sono propenso anche a, come dire, giudicare negativamente non solo la prestazione di guida, ma anche la personalità nella partita in questione. Perché fino adesso, ragazzo giovane che si era espresso piuttosto bene, io lo seguo da quando è arrivato dalla CAN C, insomma, ha debuttato al primo anno, è andato bene, quest'anno fa parte dei grandi e devo dire obiettivamente fino a ieri non mi aveva praticamente quasi mai deluso, a parte una partita a Verona, eccetera. Il problema di fondo è che quando, come sta purtroppo capitando da un po' troppo tempo, quando questi giovani emergenti vengono testati su partite di particolare difficoltà come coefficiente, spesso lasciano a desiderare. Sì, e no, non mi riferisco solo a guida. Non avete le palle, avrebbe detto Conte nel concitato finale, poi sono 50.000 euro di multa alla Juventus perché sono dovuti uscire con l'ombrello, con la gente che gli sputava addosso al Juventus Stadium, che ha rischiato anche la squalifica. Come valuti queste punizioni, ma le punizioni del giudice sportivo, Massimo? Allora, per quello che riguarda Conte, io mi sono già espresso, voglio dire, nei modi assolutamente censurabile, Carlo. Molto censurabile a livello di aggressività. Si può protestare e si può essere giustificati, io uso questo termine, non legittimati come ha detto il presidente Agnelli, perché la legittimazione potrebbe voler dire o può essere interpretata come avevo ragione di far quello che ho fatto. Tu avevi ragione di protestare, non eri legittimato a quel tipo di manifestazione. Anche perché se no poi si legittima anche per tutti gli altri. Esatto, no? Esatto. Per cui nessuna legittimazione, una giustificazione anche legata a un po' di transagonistica per l'allenatore, questo sta sicuramente bene. Rispondendo ieri a un ascoltatore ho detto non è un contesto di lavoro normale, siamo in banca, in posta o in un ufficio, insomma. Quindi bisogna tenere conto anche di questa transagonistica, dell'adrenalina, di tutto quanto, è sport, però non, è chiaro che si è andati sopra le righe ed è chiaro che non vorrei che fosse questo giustificato o legittimato anche per tutti gli altri. Massimo, ti chiedo un attimo di pazienza perché ho il traffico in linea, poi vorrei chiudere la chiacchierata con te sulle parole di Marotta. Tutti convocati. Tutti convocati all'800240024 e tra poco cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Messaggi 349-238-6666, finora poco di interessante se non questo. Povero Marotta, ma se l'arbitro era della provincia di Pescara, Palermo o Cagliari non era la stessa cosa, doveva tutelare qualcuno al posto del Napoli perché giocava al Bologna che si sarebbe preferito sconfitto? Domanda maliziosamente Andrea da Milano. Ecco, Massimo Chiesa, mi sorprende che un dirigente come Marotta, come una persona come Marotta, non abbia trovato il freno in quella situazione con quella battuta sulla provenienza dell'arbitro guida, che secondo me è totalmente fuori luogo e magari ci riporta indietro di 50 anni, no? Quando si facevano queste polemiche da dove arriva l'arbitro, di quale sezione, dove è nato, per chi tifa, tutte queste cose. Infatti, oltre ad essere stata assolutamente inadeguata e infelice come battuta, è un richiamo verso quello che è stato e non è più. Cioè, ci stiamo sforzando tutti di far progredire addetti ai lavori e non di far progredire il calcio in termini di concezione, di accettazione, eccetera. E mi viene fuori l'amministratore delegato della Juventus, peraltro ancora più censurabile di Conte, perché essendo un dirigente e avendo fatto delle dichiarazioni a mente sostanzialmente fredda rispetto a quelle che ha fatto Conte o alla reazione che ha avuto Conte all'inizio, devo dire che l'inadeguatezza delle dichiarazioni di Marotta è lampante. Quando arbitravo io, ormai diversi anni fa, c'erano dei vincoli regionali, c'erano dei vincoli interprovinciali, cioè io da toscano che vivevo a Milano avevo il blocco sulle squadre milanesi, perché ero, cioè sulle squadre lombarde perché ero toscano, sulla Fiorentina, l'Empoli perché il contrario, cioè non potevo arbitrare le squadre lombarde perché uscivo come Milano, e però essendo di origine toscana non mi facevano arbitrare Fiorentina, Empoli, cioè l'abbiamo superata queste logiche qua. Mi sembra di sì, il problema 2013. Di fondo, Carlo, è un altro, la codifica che è stata data da Braschi all'inizio di quest'anno, perché non vanno bene le due interpretazioni, e la latitanza assolutamente di dichiarazione da parte del presidente dell'AI e del disegnatore ha fatto specie, cioè il silenzio ha fatto veramente rumore, e il povero Guida si è trovato da solo. Io sono maturo, sai, abbiamo già parlato molte volte, sono stufo anche del silenzio arbitrale, ma questa è un'altra storia, no? Perché anch'io. Mi piacerebbe sentire la versione degli arbitri Dopo la partita, ma tanto mi sono abbastanza rassegnato, un arbitro in conferenza stampa dopo la partita, come l'allenatore, come ogni altro protagonista del gioco, non lo vedremo mai. Massimo, ti ringrazio. Ringrazio te e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie davvero a Massimo Chiesa. 800 24 00 24. Tra poco ci divertiamo con la Roma, col mercato, con Paulinho che non arriverà all'Inter, l'ha detto Moratti, non ci sono le condizioni. Quindi adesso non se ne parla neanche, magari a giugno, cose confermate dal Palmeiras, dal Corinthians, mentre Balotelli arriverà. Vedrete che arriverà. Io sono certo che possa arrivare, e sarebbe, a mio parere, un grandissimo colpo per il Milan, di quelli di cui si è parlato, certamente il più funzionale per la costruzione di un futuro. Poi ci sarà da pensare anche, magari dopo le lezioni con calma, alla parte dietro, quell'attacco che potrebbe essere esplosivo, cioè centrocampo e difesa. Questa è un'altra storia, se volete ne parliamo insieme. Giorgio da Pesaro, buongiorno. Salve, buongiorno. No, volevo intervenire in merito a quello che diceva l'ex arbitro Chiesa. Sì, che diceva che l'arbitro Guida, non mi ricordo come si chiama, non ha avuto abbastanza personalità. Beh, la stessa cosa si poteva dire per l'arbitro di Catania Juventus o per l'arbitro di Juventus Inter, che erano altri arbitri e si sono comportati allo stesso modo. Però a me quello che stupisce è l'arroganza di questa società, perché ieri sul Carlino, sul Resto del Carlino, sulla pagina sportiva, ho letto che Agnelli avrebbe detto ci sarà da discutere in merito alla prossima designazione di quest'arbitro. Ora a sto punto siamo anche al livello che i dirigenti della società si scelgono l'arbitro più appropriato. Non dobbiamo arrivare a quel livello. Io mi aspetto, lo scrive anche giustamente Ruggero Palombo oggi in corsivo sulla Gazzetta dello Sport. A questo punto la palla passa alla società, anche perché, scrive Palombo, l'unico in tutta questa vicenda a mantenersi sobrio è stato Andrea Agnelli. Certo, può essere anche vero, come ha detto domenica, a volte è difficile fare i lord inglesi, ma la sua mission d'ora in avanti è proprio questa: convincere Conte e i suoi ragazzi a comportamenti di cui poi non ci si debba vergognare. Questo scrive Ruggero Palombo ed io lo condivido. Perché insomma questa sindrome dell'accerchiamento non è più comprensibile. Giacinto Ravenna, mentre abbiamo anche vari tweet, quando succedono, scrive Raffaele Tartaglione, quando succedono cose ad altre squadre analizzatele in modo certosino, come state facendo adesso con la Juventus, coerenza. Sì, la Juventus sappiamo che fa sempre molto rumore. Mi domando ad esempio se la Fiorentina avesse dovuto reagire negli ultimi tempi, nelle ultime partite, in quel modo nei confronti di arbitri che l'avevano penalizzata, perché così vanno le cose. Giacinto, Ravenna, buongiorno. Sono qui, buongiorno. Ho ascoltato un Tarebano proprio adesso. Si vede che loro la vedono così e basta, insomma, ma è incredibile, perché se si continua in questo modo e se tutto ciò è permesso, prima o poi lo fanno tutti i presidenti, tutti i direttori sportivi, tutti gli allenatori, e allora la guerra civile sui campi sportivi, perché diventa una guerra civile, loro hanno sempre ragione. Sì, cioè, tutto ciò che però è dato in favore. Europa, Giacinti, in Europa è un po' più difficile. Esatto, è anche perché quei comportamenti vengono tollerati un po' di meno. Ma non c'è la Juventus in Europa, hanno un'arroganza che mi viene da dire, ascoltando la Zanzara, quell'urlo basta, lo faccio mio, basta, perché Conte è dall'anno scorso, da quando è arrivato, che ha destabilizzato il calcio, gli arbitri quando vanno lì gli tremano i polsi, perché non sono sereni quando vanno lì, perché sanno benissimo che se lo danno a favore sì, va questa, tutto bene, sì. Se fischiano contro, no, è così, è così, questa, è così. Questa è una vecchia storia, è la mia poi... sì, è sì, no, ma questa è una vecchia storia. Vede, insomma, io ho 80 anni, sono 60 anni che seguo il calcio, sì. Io questa roba qui non l'accetto, non accetto, e non accetto neanche i talebani, odio i talebani, e odio anche questi talebani qui, perché destabilizzano l'ambiente del calcio. Il calcio è calcio, è sport. Basta! Basta! Basta! Gliel'abbiamo fatto sentire, solo contento? Loro vogliono solo vincere, loro, bellissimo quel basta lì. Vogliono basta solo vincere, vogliono solo vincere, anche gli altri non ci stanno a perdere. Ma gli altri sono un po' sereni, accettano un po' di più ma guardi, fino a un certo punto, certamente la Juventus in questo momento ha i nervi un po' scoperti. E questo, lo dicevo ieri, può essere un avviso ai naviganti che inseguono. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Conte non sente la squadra in pugno. C'è effettivamente qualche problema, e qualche problema è nei numeri, ed è oggettivo, ed è il problema del gol. Luigi Speradio scrive su Twitter, non so se sia vero: volevo solo farvi sapere che Balotelli mi ha inviato un sms, mamma butta la pasta, tirate voi le conclusioni. Non so se sia vero, ve la leggo così com'è. È vero invece che le parti trattano sui dettagli, ha detto Di Marzio a Sky, che è molto ben informato. Nell'area, ma si è nell'area che Balotelli sia ad un passo dal Milan, anche perché Mario si è ridotto l'ingaggio pur di vestire rosso-nero, e quindi di tornare in Italia non guadagnerà più 5-6 milioni netti a stagione, ma l'ingaggio sarà di 4 milioni netti più bonus per 4 anni e mezzo di contratto. Cartellino intorno ai 20-21 milioni più bonus, questo è da definire alle ultime ore, ma la trattativa balla su un milione o due, insomma, con questa rateizzazione, in questo castello di carte meravigliosamente costruito da Galliani, questa volta non arriverà un soffio berlusconiano. Dunque, vorrei andare a Roma. Zeman ha diretto l'allenamento questa mattina, ma adesso non si sa. Soddisfazione rispetto a quello che la squadra riesce a produrre, e adesso noi ci fermeremo un po' interrogandoci, quindi è una fase di studio che contempla anche l'idea di poter cambiare allenatore. Purtroppo non abbiamo regole in questo momento, e quindi ogni tanto succede quello che non dovrebbe succedere. Ci manca regolamento scritto per i comportamenti. Ci siamo sentiti attaccati perché lui ha citato nella circostanza solamente l'assenza di un regolamento che l'avrebbe aiutato, ma credo che sia stata una cosa detta così, non con un secondo fine. Poi ho letto che era o si trattava di un attacco ai dirigenti. Non c'è questo rapporto tra di noi, quindi io non mi sono sentito minimamente sfiorato da questa cosa qui. Abbiamo avuto un sacco di problemi con l'influenza, un sacco di problemi con il tempo, e quindi non abbiamo potuto lavorare come vorremmo. Tra il fumo di mille sigarette, problemi con tempo, dice Zeman, ma anche con il tempo o con il messaggero. La stampa romana si è sbizzarrita sulla ripresa degli allenamenti. Allora, dopo la partita di Bologna domenica sera, festa in maschera a Ostia per i giocatori della Roma. Il giorno dopo, a fare allenamento, erano in 11, all'inizio in 15, Florenzi va via subito, Castagne e Pjanic pure. rimangono Lamela, Marquinhos, Burdisso, Lucca che è un ragazzino, Bradley, Taxidis, Torosidis appena arrivato, Romagnoli, Marquinhos, Piraset, Addei, insomma 11 netti e sala dei massaggi, sala della fisioterapia affollatissima. Questo il dopo partita, che mi sembra abbastanza significativo considerato che Totti il giorno dopo la partita non si allena mai, eccetera eccetera. 10:30 in 11 sul campo. Antonio da Perugia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Notizie del traffico? Notizie del traffico? Dobbiamo dare la linea al traffico? No, perché devo dare la linea al traffico? Pensavo alla borsa tra un minuto. Ah, va bene. Senta, sono tifoso della Juventus. Sì. E spezzo una lancia in favore di Zeman perché mi fa tristezza dal punto di vista umano. Perché tristezza? E per come viene dato un ultimatum alla società in base a come andrà la prossima partita. Mi pare abbastanza normale vista la polemica pubblica che c'è stata, no? Va bene, però mi sembra che anche i risultati siano al di sotto delle aspettative e delle possibilità, visto l'organico della Roma. Va bene, adesso a prescindere dall'organico, la Roma sapeva che il gioco di Zeman è questo, cioè i suoi alti e bassi, doveva avere anche tempo per amalgamare il tutto e non era facile, oltretutto la decisione di lasciare fuori De Rossi, colonna portante. Non è una decisione da poco, appunto. Quindi lui appunto. Cioè, mi sembra una decisione bizzarra, e poi in un ambiente come quello romano lasciar fuori un giocatore come De Rossi implica delle conseguenze, un po' come era per Del Piero alla Juventus, insomma, fatte certe proporzioni. Antonio, la ringrazio, non c'è il traffico ma c'è la borsa che ascoltiamo, poi torniamo, vi aspetto all'800240024. Se io ascolto determinate cose, un vergogna mi sembra un minimo, il minimo che io possa dire. Basta! Basta! Basta! Tutti convocati. E vi convoco sempre, tutti e ogni giorno, all'800240024, numero verde. Vorrei parlare adesso un po' dell'arrivo imminente, questione di ore, di Balotelli. C'è una dichiarazione dell'altra sponda, cioè di Tronchetti Provera, che insomma dice quello che sente, dice la verità. E secondo, le darebbe molto fastidio vedere Balotelli con la maglia del Milan? Guardi, rispondo alla seconda, sì, mi darebbe molto fastidio per Balotelli con la maglia del Viva Milan. La sincerità. E questo è. Viva la sincerità, esatto. Marco Nosotti da Sky, che conosce perfettamente l'ambiente del Milan, che io saluto e ringrazio. Ciao Marco. Buongiorno a tutti, ciao Carlo. Ciao. Il mago dei castelli di carte Galliani sta per colpire, Balotelli stavolta arriverà. Non ci sarà nessun Berlusconi, e uso il plurale, ad alzare il dito per fare no all'ultimo momento, come era successo con Tevez. Credo di no, perché ha già fatto marcia indietro a suo tempo, perché siamo in periodo elettorale, come cantava Gaber, come sono belle le elezioni e come sono giuste le elezioni. E non so quanto sia vero, ma quanto è abbastanza vicino alla realtà in questo momento, nel senso che è un'operazione d'immagine, non tanto come quella di Kakà, ma una grande operazione di mercato. Gagliani con Raio l'ha lavorato bene, è andato a infilarsi nelle pieghe di un rapporto deteriorato, quello fra City Balo, Telli, e si accaparra un giocatore, se va come sembra, come arrivano le notizie da Manchester, come dicono i miei colleghi molto più bravi di mercato, se va come va, si accaparra un giocatore che indubbiamente dal punto di vista tecnico è molto forte. Ma certo, Marco, ma mentre le operazioni Cacao, Drogba, così sarebbero state praticamente pure operazioni d'immagine, questa è un'operazione che ha un senso calcistico un po' diverso, esatto. O no? Questa sì, perché ti dico, in nazionale, io vedo in nazionale come Mario si comporti bene, almeno non vada oltre le righe, qualcun altro ce n'è andato, il gruppo di fatto lo ha messo alla porta, con Mario non è stato così, Mario è importante perché con El Shaarawy e un altro là di fianco non con spiccate doti offensive può costituire l'attacco di Brandelli alla Confederazione Cup. Ma certo. E quindi tu metti in casa due italiani che vogliono giocare insieme, che parlano la stessa lingua, che sono molto giovani. Sì, Mario è forte, ha tanta qualità, deve dare continuità e decidere di dare corpo a quella frase che ha detto un giorno: io voglio diventare uno dei più forti giocatori del mondo, voglio diventare il più bravo e vincere il pallone d'oro. L'ha detto lui o Raiola? Mi ricordo più. Ha detto lui, lo dice anche lui. Aveva questa aspirazione da ragazzotto. Sì. Fa vedere che le potenziali ce le ha. Il potenziale c'è, non deve farlo con continuità, perché poi il resto fa parte. Ma uno che ha bisogno di giocare con continuità, esattamente così, anche per essere responsabilizzato e magari crescere un po', perché se lo fai giocare a tratti, un giorno in campo, un giorno un tempo, un giorno in tribuna, è anche più facile che per un ragazzo di quest'età scivoli la frizione. Lui ha ampia esperienza da questo punto di vista. Sulla frizione l'argomento è toccato casuale, ovviamente. Assolutamente casuale. Senti Marco, per chiudere la nostra chiacchierata, volevo chiederti, dopo questo colpo a effetto che si farà in futuro, con calma, magari dopo le elezioni, ci sarà nella ricostruzione del Milan, che comunque procede già speditamente, ci sarà da pensare a dare sostanza dietro, no? Centrocampo e difesa. Sì. Io vedo che intanto sarà un primo problema dare un'identità, una fisionomia vera dal punto di vista tattico a questa squadra. Partite con tre centrocampisti, con tre uomini al centrocampo, un tridente o due attaccanti, poi si è ritrovato a provare anche il 4-2-3-1 perché ha comprato De Jong. Si sono trovati un po' spiazzati dalla partenza dei grandi. Sì. E non solo Ibrahimovic, Thiago Silva, partito anche Cassano che dava tanta qualità. Allora, sì, che squadra volete essere? Un 4-2-3-1? Volete attaccare con una sola punta? Sembra una banalità, ma questo funziona e incide. Certo, penso il merito di Allegri è stato quello di gestire una svolta epocale anche a livello di mentalità e di filosofia nel Milan. Secondo me Allegri, o uno come lui, nel senso devi dargli due anni almeno per lavorare con pazienza senza delegittimarlo ogni mezz'ora, e devi mettere mano a dare qualità anche negli altri reparti. Adesso la squadrina funziona, tira benino, d'accordo, manca di malizia, gestisce male i momenti topici della gara perché non li legge bene, perché hai qualche suo elemento, a volte qualche caduta di qualità, ma sta crescendo. Ci metti un Balotelli, il terzo posto non è così distante. No, non lo è, considerato il rendimento delle altre, insomma, che mi sembra in flessione. Marco, ti ringrazio tantissimo. Grazie, ecco, davvero. Tutto questo non serve a niente se domani Balotelli o dopodomani non arriva. Però nel mercato sono infinite. Io ci ho sempre creduto, perché voglio che Balotelli, desidererei che Balotelli tornasse in Italia e desse spazio per l'Italia e per i club italiani e tutto il suo valore, e si confermasse. Però se succede è una bella operazione. Sono stati bravi. E certo, sono stati bravi. Grazie Marco. Grazie a te, buona giornata. Ciao. A tutti. No, ciao. La scuola di frutta se ne intende poco, pochissimo. Mario è una ciliegina, non è una mela marcia, anzi, tutto il contrario, un frutto esotico. Il frutto esotico di Raiola, dunque, sta maturando per la maglia rossonera. Ivan da Catania, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. La mia domanda è questa qui: lei prima ha fatto una valutazione su Zeman alla Roma, che Sabatini e Baldini dovevano immaginare e sapere cosa sarebbe successo quando Zeman è arrivato alla Roma. La domanda è questa qua: perché De Rossi si poteva permettere, dopo la partita con la Juventus, di aprirsi e dire semplicemente che la Roma non era, diciamo, da primi posti, mentre quando bacchetta Zeman ha normalmente sbagliato? Perché si difendono tanto i giocatori e non mai gli allenatori? C'è una mentalità, ricordo sempre che De Rossi da solo guadagna quanto guadagna tutta la città di Campobasso. Sì. E si può permettere di dire quello che vuole. Questo non lo capisco. Non capisco perché De Rossi o altri possono fare, soprattutto a Roma, quello che vogliono. L'anno scorso Luis Enrique aveva mandato il messaggio, se lei si ricorda, dopo la partita di Bergamo, in cui fece presente che De Rossi era stato fuori per quel famoso discorso della puntualità. Sì, della puntualità all'allenamento. No. Però facciamo in modo che questi giocatori siano sempre più coccolati. Lei pensa che Balotelli veramente possa resistere a Milano più di un annetto alle regole? Sì. Non credo. Sì. Io credo di sì. No. Io credo di sì. È un ragazzo che non ha educazione, quindi di conseguenza si comporterà. Ma mi sembra che Cassano non non sia molto diverso, anzi sia per alcuni aspetti molto più difficile da gestire di Balotelli. E al Milan ci sono riusciti, lo hanno rimesso in piedi dopo il problema che aveva avuto, eccetera eccetera. Io credo che Balotelli responsabilizzato e con una maglia da titolare, perché questo è molto importante anche sui, può avere riflessi importanti anche sui comportamenti fuori dal campo, io credo che possa resistere ben più di un annetto a Milano. Quanto al discorso di Rossi, insomma, quanto al discorso di De Rossi, sappiamo bene che a Roma ci sono giocatori che hanno un peso importante sulla tifoseria, sull'opinione pubblica. Uno di questi è De Rossi, e io francamente però anche dal punto di vista tecnico non riesco a capire come uno dei centrocampisti più forti del mondo fatichi a trovare spazio in una squadra come la Roma. Questo non faccio fatica a capirlo. Giordano da Bergamo. Buonasera, buongiorno. Niente, volevo intervenire solamente per tirare, come si dice, una spada in favore degli arbitri. Cioè, mi sembra che sia stato un po' troppo aggressivo, signor Marotta, nei confronti dell'arbitro, signor Pira. Sia stato, la sento però, male, Giordano. Marotta sia stato? Cioè, adesso si sta facendo un casino, perché anche ieri è successo ancora, perché un ragazzo fa bu in confronto di un altro ragazzo, toglie la maglia e abbandona. No, guardi, no, veramente non riusciamo a sentirla, magari proviamo a ricollegarci. Alessandro, provincia di Pistoia. Buon pomeriggio. Salve. Grazie, io vorrei parlare di sci, so che sono un po' fuori dal coro. Non però, è mai fuori dal coro nessun intervento su nessuno sport, assolutamente. No, soprattutto in prospettiva dei prossimi mondiali, viste sì. Le ultime gare, specialmente a livello maschile, mi sembra che... Paris e Nerofer hanno fatto grandissime cose. Sì, stiano venendo fuori delle indicazioni piuttosto positive a livello maschile, anche nelle specialità più tecniche, perché comunque anche slalom, c'è un Razzoli che è abituato alla neve di noi degli Appennini, insomma, però sta andando discretamente. Gross che gli manca proprio un capellino, forse gli manca il podio per acquisire ancora più sicurezza. Femminile, speriamo in Dada Merighetti, che sì, femminile siamo che un sia po' più continua, però la continuità di Dada Merighetti, secondo me, se trova quello, è comunque a grandi livelli, perché è arrivata seconda a Cortina, può fare grandi cose. Sì, purtroppo la Brignone discontinua. Sul fronte femminile non siamo messi, cioè non abbiamo la fiducia che possiamo legittimamente avere in prospettiva mondiali, che gli ultimi risultati ci hanno dato sul fronte maschile, perché quello che ha fatto in Rofer, quello che ha fatto Paris, l'abbiamo visto tutti. Sul fronte femminile da un po' che comunque facciamo molta fatica. Tutti convocati. Quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Ecco che torniamo con una notizia ufficiale. Zeman per il momento rimane alla Roma, ha accettato le nuove regole, dunque la Roma fa sapere che Zeman rimane, ma io credo che insomma, il fatto che si giochi venerdì con il Cagliari, il fatto che non è così facile trovare un altro allenatore, credo che possa essere la partita spartiacque, anzi sono certo che possa essere la partita spartiacque per l'avventura di Zeman alla Roma. Proprio da Roma chiama Ivano, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione e sono molto contento di essere riuscito a essere convocato. Niente, io volevo semplicemente dire, non sono tifoso di una squadra in particolare, quindi non sono un tifoso normale. A me piacciono i grandi campioni, i grandi calciatori, indipendentemente da che squadra giochino. Però devo dire una cosa, Marotta, a mio avviso, alla Juventus lo stanno mandando a fare un corso serale da Luciano Moggi. Il tipo di comportamento che sta prendendo. No. Perché questo... i messaggi trasversali, quelle mezze illusioni, mi sembrano classiche di un Moggi degli anni d'oro. No, questo è eccessivo. Marotta, secondo me, di cui ho grande rispetto, ripeto, ha detto una sciocchezza. Ha detto una sciocchezza l'altro giorno e ha beccato la prima squalifica, per quanto possono essere significative. Sì, ma non è la prima sciocchezza. Già Catania qualcosa aveva detto di sbagliato, e anche altre volte. Quello che dico è, non vorrei che una bravissima persona come Marotta, che io considero un grande direttore sportivo, stia prendendo una brutta piega in un ambiente magari non adatto a lui. No, non credo proprio, Ivano, non credo proprio. L'ambiente innanzitutto è molto diverso da quello che c'era in passato. Un dirigente può anche avere diritto, magari con altre parole, con altre espressioni, con altri concetti, di difendere la propria squadra se la ritiene danneggiata. Marotta è una persona per bene e questa è appunto la prima squalifica che piglia in carriera, dopo aver detto una sciocchezza, perché può capitare, anche se non dovrebbe. Roberto Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, mi perdoni la voce ma sono un po' raffreddato. Siamo in due. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, una provocazione in materia a questa cosa della Juve, eccetera, eccetera. Ma alla fine io mi chiedo, ma se la Juventus dà fastidio a tutti e si sente in realtà vittima, ma perché non si iscrive a un altro campionato? In fondo i club sono club privati, non sì, sono... Sì, perché non, ma anche questo è un vecchio discorso, si ricorda che era stato sì, fatto, io ricordo, ma perché io... non è possibile? Anche forse, non conviene, forse non conviene magari a nessuno. Ma insomma, non è possibile, si può accettare la provocazione, ma questo è evidente che non è possibile. E quindi festa finita, la Juventus è tornata ad assumere un ruolo centrale nel nostro campionato, come è sempre stato, in fondo, senza dimenticare che tra l'altro ha la tifoseria più diffusa d'Italia, no? Cioè, e qui possiamo tornare al discorso di Marotta, provenienza dell'arbitro, boh, per chi farà il tifo l'arbitro? Juventus ha la tifoseria più diffusa d'Italia, ma sono tutte sciocchezze queste. Allora, io prima di Samuele da Verona e Massimo da Napoli voglio farvi sentire, in attesa dell'ufficialità di Balotelli a Milano, qualche dichiarazione di un suo amico, ex amico, certamente ex compagno di squadra, dichiarazione fatta alla Gazzetta dello Sport, Materazzi sui calzini di Balotelli, rossoneri. I colori sono i suoi preferiti, perché quando veniva negli spogliatoi con i calzini del Milan io li tagliavo, erano già questi, quindi non ci metterebbe tanto a cambiare solo sponsor. Avete capito, Materazzi? Ma me ne faccio sentire un altro dopo un famoso episodio. È un bravo ragazzo, un bambinone. E questa gli è una bella foto che vi ritrae insieme. Gli piace divertirsi, sì, molto bella. E io di lui ho solo grandi ricordi. Poi qualcuno ce l'ha più brutto lui di me, perché quando giocavamo contro il Barcellona glielo dissi prima della partita, visto che lui diceva: se oggi entro non mi vado a giocare. Io detto: se oggi entro e non ti vai a giocare io ti picchio. E poi dovetti farlo, perché come fosse stato mio figlio. Però adesso è mio fratello, è uno che quando si è operato a Pavia al menisco, a mezzanotte c'ero io con lui. L'avevo promesso e poi mi ha toccato dargliele, insomma, te l'avevo promesso e adesso mi tocca darti due schiaffoni. Affare fatto. Ma ce n'è un altro divertentissimo a proposito di un allenatore che Materazzi, murignano di ferro, non ha mai propriamente amato, insomma. Benitez continua a ricordarsi di te, evidentemente ti vuole bene, ha detto che sei un bugiardo, tu cosa rispondi? Ah, io rispondo che è magro, almeno passo per bugiardo a ragion veduta. Materazzi è passato davanti all'ufficio di Benitez quando andava a fare allenamento e se vedeva che Benitez era lì, allora passava fischiettando, canticchiando José Mourinho, immaginate quale rapporto ci potesse essere tra i due. Allora, torniamo agli ascoltatori. Perché sono spariti? Dove sono finiti? Ci sono? Eccoli qua, erano scomparsi dal monitor, Samuele da Verona e Massimo da Napoli, chissà perché. Samuele, buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno. Visto che la sento così contenta dell'arrivo di Balotelli a Milano, perché penso per motivi anche suoi personali, in quanto la ritengo milanista, anche se lei non dice mai di che squadra è. Le faccio un pronostico: l'anno prossimo grande annata del Milan di Balotelli, poi vi mangiate lo scudetto a Verona come il 10 maggio del 73. Sì, ma mangialo, non lo so. Lei fa faccio pure ricorda quello. Il 5-3, vero, del 10 maggio del 73. Ero piccolo, l'ho rivisto poi con calma quando sono diventato grande. Comunque se lo potranno anche mangiare. Io sono contento se Balotelli torna in Italia, certamente. sono contento se trovo una qualunque squadra. Si parlava anche ieri, è stata fuori questa notizia della Juventus che si era inserita in una trattativa per Balotelli. Va benissimo qualunque squadra che lo faccia giocare, perché vedere un giocatore che secondo me ha potenzialità enormi, lasciamo perdere per un attimo il carattere, che ripeto, le cui bizzarrie possono anche essere strettamente condizionate al fatto che si senta fuori da non così importante per una squadra, ecco, veder giocare Balotelli in una squadra italiana con continuità per me sarebbe una grande notizia, a prescindere dal fatto che sia il Milan o un'altra squadra. Massimo, Napoli, magari anche a Napoli, si era parlato di Balotelli a Napoli, non so se lei... Un'operazione bellissima, poi i napoletani hanno il cuore che si incendia su questo. Io invece avevo chiamato per due questioni che volevo sottoporre a voi, a esperti e addetti ai lavori. Uno riguardava la Roma e uno il mio contributo anche su Mario Balotelli. Sì. La Roma, volevo sapere cosa pensate voi dell'eventualità che si dovrebbe creare in Italia, visto che le società di calcio sono società per azione che producono utili, riguardo all'esonero dei dirigenti. Mi spiego meglio. Se Zeman dovesse essere esonerato, due minuti prima mi aspetto, se il calcio è gestito seriamente, anche le dimissioni di Franco Baldini, che ha gestito, secondo me, lascio a voi poi il giudizio, in maniera non pessima, tremenda, la gestione Montella, la gestione Luis Enrique, e oggi si scopre che ha sbagliato a prendere anche Zeman. Lascio a voi poi dopo il giudizio, questo è ovviamente strettamente mio personale. Su Balotelli l'uomo è forte, il calciatore è fortissimo. I dubbi sull'uomo Balotelli secondo me vanno sottoposti alla prova di Mario Balotelli con la maglia a strisce del Milan, dello psichiatra. Sì, perché secondo me è tutta un'altra storia. Io da Napoli, tifoso del Napoli, se si regolarizza la cosa mi faccio anche l'abbonamento a Milan Channel, perché bisogna vederlo Balotelli al Milan. Sì. È tutta un'altra storia, secondo me. Da napoletano tifoso del Napoli. Sì, è chiaro. Ovviamente tifoso del Napoli, ma appassionato del calcio. Sì, ma è così che bisogna essere. Io sono per i giocatori... che mi fanno divertire, a prescindere dalla maglia che indossano. Insomma. Mario Balotelli con la maglia del Milan addosso è tutta un'altra storia, a meno che lei crede. Crede che sia così profondamente tifoso del Milan da essere responsabilizzato fino a questo punto dal fatto di giocare nella squadra che faceva il tifo da bambino? Se non esplode con la maglia del Milan, e allora farà la fine dei tanti talenti bruciati che il calcio ne annovera atomi alti 10 metri. Intanto con la maglia azzurra già qualcosa di interessante. Una volta, ripeto, messo in un gruppo controllato e responsabilizzato, mi pare che gli ultimi europei qualcosa di interessante, diciamo così, abbia fatto. Ne riparliamo domani, magari quando Balotelli sarà già arrivato. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Grazie a tutti voi. Domani alle 2 ci ritroviamo. Ciao.